Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo chiesi ai miei genitori da grande, per quale motivo mi avessero messo al mondo in un periodo così inopportuno, con mia madre che durante la gravidanza calmava la fame bevendo acqua. Ma non ebbi mai risposta, solo un imbarazzante silenzio. Io mi chiamo Silvia, vivo a Milano da soli 7 anni, prima stavo in Sicilia e adoro Milano, ho una nipotina di 2 anni e adesso sono proprio soddisfatta. Norma è una bambina in forza, nasce il 1° di giugno del 1926 alle 9:30 del mattino. Ha la mamma ma non ha il papà, o meglio ce l'ha, però il papà si dà alla macchia molto in fretta. La mamma in realtà non sta benissimo, non è proprio in splendida forma e quindi Norma sin da bambina comincia a fare dei giri strani. Prima la mamma si sposa con un tizio che le dà il suo nome alla bambina, però poi il tizio sparisce, lei inizia ad andare prima in adozione, poi in affido, accusa alcuni di questi genitori adottivi e in affido di violenze, di molestie. Sta per 7 anni con una coppia che pare anche le voglia bene, fino a che un giorno la madre le dice: non chiamarmi mamma perché io non sono tua mamma, io ti ho semplicemente affidato. Insomma, non è considerata un granché questa bambina da nessuno. Siamo verso la fine degli anni 20, negli Stati Uniti c'è la Grande Depressione, cioè insomma è un delirio, la sua vita è veramente un disastro. Alla fine di questo tourbillon di adozione da cui Norma non riesce a uscire, pur di tirarsene fuori e di non finire in un orfanotrofio, Norma si sposa a 16 anni e si sposa con un tizio che si chiama James, il quale addirittura non vuole nemmeno sposarla, però alla fine accetta semplicemente perché la madre lo convince. Quella ragazzina che si chiama Norma, in realtà bambina e ragazzina, si chiama Norma Jane e diventerà Marilyn Monroe, e la sua storia racconta di come anche quando si nasce non si è presi in grandissima considerazione dalle persone che ci stanno vicino, beh, quello forse non vuol dire proprio un bel niente. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Non racconteremo la storia di Marilyn Monroe oggi, anche se l'abbiamo fatta velocemente, è comunque la storia più assurda, è che questo James Dougherty dovrà rispondere a qualcuno del fatto che non voleva sposarla Marilyn Monroe, eh? Prima o poi ne risponderà, cioè si dovrà davanti a uno dire: vabbè, ok, va bene, non la volevo sposare, però ho capito, ma non era ancora Marilyn Monroe. 349-238-6666, in qualche modo capita un po' a tutti, è capitato magari in fasi alterne della propria vita di essere la pecora nera della vostra famiglia. Se lo siete stati, in quale periodo e perché? 349-238-6666, come ad esempio scrive Maria Donata: io sono da sempre la pecora nera, il mio stesso nome lo dice. Maria Donata fu una accettazione, virgolettato da Maria Donata, per essere nata fuori tempo massimo all'epoca. C'erano 20 anni di differenza tra me e i miei fratelli e non potevano non creare una diversità generazionale profonda. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook da cui ho appena attinto questa storia di Maria Donata. Voi siete qui, Radio 24. Se volete però potete scaricarvi i podcast direttamente dal sito o ascoltarli in streaming. Tra l'altro sono 22, no? Allora, al netto di GR e pubblicità sono 22 minuti precisi, che se tipo dovete fare una roba andate a correre, andate a camminare, così Tiziano, così a correre o a camminare sono perfetti, 1 o 2 sono diciamo un'unità di misura perfetta. 349-238-6666, vi dicevamo, raccontiamo la storia di Silvia, avete sentito la sua voce, che non parte benissimo nemmeno lei, insomma la storia che ci manda è proprio quella della partenza, però l'avete sentito dalla sua voce, in realtà poi dove si trova adesso sta molto bene. 349-238-6666. Giulia scrive sempre su Facebook: io ovviamente sono sempre stata la pecora nera della mia famiglia, mentre facevo, e poi c'è questo aneddoto, mentre facevo la foto ad un pranzo di famiglia, mio zio mi definì prolasso. Ora, ci piacerebbe anche capire esattamente perché, cosa stai facendo mentre scattavi quella foto o che cosa aveva tuo zio contro di te. Comunque diciamo che prolasso non è proprio il soprannome o il nomignolo che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire. 349-238-6666 o il profilo Twitter Pecore Nere. Questa è la storia di Silvia. Ritornando dalla Sardegna, tra fame nera, esaurimento nervoso paterno, problemi e disperazioni, non so come né perché fui concepita io. Glielo chiesi ai miei da grande per quale motivo mi avessero messo al mondo in un periodo così inopportuno, con mia madre che durante la gravidanza calmava la fame bevendo acqua. Ma non ebbi mai una risposta, solo un imbarazzante silenzio. Noi siamo finiti in Sardegna perché mio padre frequentava un bar a Messina insieme ad altri amici antifascisti e il cameriere era una spia fascista e ha riferito i discorsi che facevano e siccome mio padre era un impiegato dello Stato è stato trasferito in Sardegna per punizione. La verità la conobbi a 60 anni passati, qui a Milano, tramite una lontana parente. Fu un incidente di percorso. L'esaurimento paterno, non mi volevano proprio e mia madre fece di tutto per abortire. Quindi non solo mi mancarono tutte le sostanze, ma pure chissà che intrugli benefici mi arrivarono nel tentativo di farmi fuori. Ecco perché sembro fatta di materiale riciclato e scadente. Capelli sottilissimi e mai cresciuti del tutto. Sono stempiata dalla nascita. Muscoli, tessuti, pelle, denti, ciglia, vene, arterie, tutto debole e sottile. Mi dissero sempre di stare dritta e non ce l'ho mai fatta. Mia sorella ha avuto il latte troppo grasso e io l'ho avuto annacquato. Una vita in salita la mia, e in tutti i sensi. Una fatica immane per fare ogni cosa, ma soprattutto per lo studio, dato che ero e forse sono ancora dislessica totale. Problemi con la scrittura, con la lettura e soprattutto con i numeri. Una carriera scolastica da incubo, tra il disprezzo di tutti e in netto contrasto con la sorella che invece era promossa ogni anno. Io, una vera pecora nera. Una croce familiare per cui mio padre doveva sempre attivarsi per cercarmi delle piccole raccomandazioni, doveva sempre pagare delle ripetizioni. Ero, mi sentivo e mi facevano sentire un peso, un problema. In compenso però, da neonata, a differenza di mia sorella, non diedi alcun fastidio. Mangiavo e dormivo senza fiatare. Anche quando, fattami una culla da un cassetto foderato, infestato di pidocchi, fu invasa da quegli insetti. Forse era la debolezza a tenermi buona. Caduto il fascismo, dopo una bella ubriacatura paterna, rientrammo a Messina. Rientrammo in quella enorme casa che era stata assegnata a mio padre e, per aiutare una sorella di mia madre che non poteva pagarne una tutta sua, si decise di vivere insieme, dividendo le spese e intestando la casa al marito della zia, lo zio Nino, che non era soggetto a trasferimento come mio padre invece. Forse, andando in Sardegna senza questo stratagemma, la casa l'avremmo persa, ma comunque la perdemmo lo stesso, perché lo zio si fece padrone e noi diventammo ospiti, insieme ad altri parenti che alloggiarono nella grande casa, sino a che non ne furono assegnate altre dopo anni di convivenza, ma soprattutto altre case molto più piccole di quella, solito regalo del fascismo. Io con i miei genitori avevo un magnifico rapporto, soltanto purtroppo essendo nata in un momento infelice, in piena guerra, in Sardegna abbiamo patito la fame e questo ha avuto delle gravi conseguenze sulla mia salute in tutti i sensi. I parenti non sapevano del mio avvento, mia madre l'aveva tenuto segreto per fare a tutti questa bella sorpresa. Mi estrasse con grande soddisfazione dal suo cappotto ed ero secca, spelacchiata e in più strapazzata dal lungo viaggio. Restarono tutti di stucco e le zie dopo la prima sorpresa scapparono in bagno a ridere per questa bambinetta presentata con tanta enfasi ma così bruttina. Ero l'immagine della guerra e devo dire che anche alle medie la professoressa, riferendosi alla mia classe, la classe del 1943, ci chiamava babbi di guerra. Dimenticate completamente la descrizione che si è fatta di se stessa Silvia, perché nella foto che ci ha mandato e che è sul nostro sito, alla nostra pagina insieme al podcast e alla possibilità di condividere il tutto, ha una bellissima faccia, è molto sorridente, una bella camicia lilla e un bel sole, credo milanese, alle sue spalle. Pronto Silvia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene. È molto bello come leggi le cose. Figurati, grazie per la storia che anzi sembrava una storia, cioè ha il tono di una storia drammatica la tua in realtà, però fortunatamente poi adesso sento che sei in forma. Sì, ho recuperato poi. Ne sono passati di anni d'altra parte. Sì. Sei a Milano adesso, Silvia, giusto? Sì, siamo a Milano da 7 anni. Come mai? E i figli non trovavano lavoro in Sicilia. E quindi abbiamo dovuto vendere tutto e trasferirci qua. Quindi tutta la famiglia si è trasferita? Sì, sì, sì, non ho più nessuno in Sicilia. E quindi siete tuo marito, i figli, i nipoti? Sì, sì, sì, una nipote. Una nipote, che è nata da poco, giusto? Da poco, sì, 2 anni. E sei messinese tu, per l'esattezza? Messinese, sì, sì. E quindi non hai più nemmeno una casa, non ci vai più d'estate? No, non abbiamo più nessuno in Sicilia. E non ti manca da morire, visto che ci hai vissuto per tutta la vita? Guarda, la Sicilia è rovinata. Ah, una terra bruciata proprio. Non ho nostalgia perché si viveva male, senza servizi. È una terra bellissima, purtroppo, ma proprio l'hanno amministrata male anni e anni, e guarda, è un dispiacere ogni volta che vado. Quindi, insomma, sembra che tu te ne voglia tenere lontana quasi. Sì, sì, ho nostalgia, però quando vado non vedo l'ora di tornare a Milano, dove fra l'altro mi sono inserita benissimo. Benissimo. Mi dici perché ti trovi così bene a Milano? Cosa fai? Sfrutti la città? Per me è un sogno, mi sembra di essere all'estero, essendo vissuta in un posto dove non c'erano mezzi pubblici, sono insufficienti, quasi inesistenti. Girano tutti in macchina, quindi tutti in macchina e tutti fermi. Non ci sono parcheggi. C'è, okay. Gli ospedali sembrano lazaretti, questa è la Sicilia. Va bene, insomma, sento che c'è un po' di malinconia, quasi di rabbia. Un sogno, guarda. Va bene. Lamentano i milanesi, ma non hanno idea di cos'è stare al sud. Che mestiere hai fatto nella tua vita, Silvia? Ero impiegata alla provincia. Alla provincia, quindi insomma avevi un lavoro d'ufficio. Sì, sì, lavoro d'ufficio, sì. Da cui sei in pensione da quanto? Dal 92, dal 92. Ok, invece raccontami, come fai a sapere con esattezza queste storie della tua infanzia? Te le hanno raccontate, ovviamente, delle zie che si mettono a ridere? Mi hanno raccontato questo fatto, che ero terribile quando sono arrivata. Ero spelacchiata, secca. Pensa che i miei genitori erano rotondetti, di costituzione. E anche la sorella, mi sembra di capire. Sì, però in quel periodo erano diventati tutti magrissimi. E quando eravamo in Sardegna non c'era niente da mangiare, mia madre tagliò tutto il suo corredo dove era ricamato, lo scambiava con le sarde che lo utilizzavano per i costumi in cambio di mangiare. Poi avevamo una domestica che aveva il fidanzato sardo e che andava a rubare il pane, tipo Benigni quando ruba le banane, sai. Cioè, parliamo degli anni della seconda guerra o dell'immediato della dopoguerra? Della seconda guerra mondiale, quindi sì, 43-44. 43-44, sì. In che zona della Sardegna eravate? Lanusei, provincia di Nuoro. Lanusei, perché il tuo babbo era anche lui impiegato pubblico? Era? Sì, sì, sì, era impiegato pubblico. Lui era cancelliere e gli bloccarono la carriera anche dopo che è caduto il fascismo, perché al ministero c'erano i nostalgici fascisti. Sino a quando non sono andati in pensione, mio padre ha avuto la carriera bloccata. E esattamente cosa faceva tuo papà? Era cancelliere. Poi fortunatamente gli hanno dato tutto quello che aveva perso, insomma, ha recuperato. Silvia, senti, ascoltando la tua storia, sembrava una vita tragica la tua. In realtà, appunto, adesso sei una persona felice e lo si sente. Mi dici che cosa, se si può trarre un insegnamento da questo inizio di vita così rocambolesco? Cosa hai capito? Cosa ti sei portata dietro? No, sono diventata coraggiosa, lottatrice. E a differenza di mia sorella, purtroppo mia sorella non c'è più, mia sorella era stata molto desiderata invece dei miei, è arrivata nel 40 quando ancora non c'era la guerra, e lei invece è stata viziata, è cresciuta insomma troppo protetta, invece io mi sono portata avanti lottando. E siamo qui insomma, Silvia. Così, sì. Silvia, ti ringrazio per la storia e la chiacchierata e ti faccio gli in bocca al lupo per la tua famiglia e per tua nipote, ovviamente. Grazie Matteo. A presto, ciao Silvia. A presto, ciao, grazie, ciao, ciao. Nel paese dove andavo in vacanza in montagna da bambino, il protettore non è un santo, ma è un signore che è nato lì negli anni 30. Si chiamava Orlando, nacque da una donna di 43 anni, che che per oggi non è così assurdo, ma in quegli anni era quasi una condanna. Il marito era mancato mentre nei boschi tagliava una pianta che gli finì addosso. La coppia aveva già avuto 4 figli e quella gravidanza tardiva proprio non ci voleva. Il piccolo, quando nasce, viene pressoché dimenticato. Cresce grazie alla sorella maggiore, che ha 19 anni, perché la madre deve lavorare tutto il giorno per far mangiare i figli. Orlando cresce magro, quasi trasparente agli occhi di tutti. A 6 anni, quando sente per la prima volta dire alla mamma la frase «è nato per sbaglio». Quando compie 14 anni si trasferisce nel paese più grande della valle e impara a fare il muratore e il falegname. E si trova proprio lì, quando in un'estate più piovosa del solito, la montagna sopra il suo paesello cede e trascina con sé diversi abitanti e quasi tutte le case. Lui torna subito e dalla sua famiglia sono sopravvissuti la sorella maggiore e un fratello. La loro casa invece non c'è più. Orlando si mette a lavorare come può per salvare quello che trova tra il fango e quando la valle si riprende, ricostruisce la sua casa come se nulla fosse successo. Ci impiega quasi 6 mesi e quando ha finito sembra la stessa casa di dove era nato, solo più nuova e più bella. In questi mesi intanto però i fratelli per lavorare sono scesi più a valle. L'intero paese è praticamente abbandonato. Le poche case che sono rimaste in piedi ospitano non più di 20 persone delle 300 che abitavano la frazione di montagna. Orlando intanto ha quasi 20 anni, continua a lavorare come falegname e apre la sua falegnameria. A 25 anni ha già 13 persone che lavorano con lui. La guerra è finita, l'Italia si sta rimettendo in piedi e lui vuole rimettere in piedi anche il suo paese, che ormai è quasi abbandonato. Nel tempo libero, Orlando sale su alla sua frazione e insieme ad un paio di suoi lavoranti, anche loro compaesani, si mettono a ricostruire una ad una le case abbattute dalla frana. La gente inizia a parlarne, in giro si sparge la voce. Alcuni abitanti o figli di quelli che ci abitavano, che ormai vivono in città, nei fine settimana, durante le vacanze, tornano in paese per aiutare Orlando. Insomma, in circa 3 anni il paese è completamente ricostruito. Non tutti gli abitanti ci tornano a vivere, ma circa 150 persone lo abitano ancora oggi. E il giorno del suo compleanno, il compleanno di Orlando, il paese festeggia come se fosse il santo patrono. E sulla sua tomba c'è scritto «Nato per sbaglio». E alla fine, dalla storia di Silvia, ho capito che prima cosa, mai fidarsi degli zii. Seconda cosa, mai fidarsi delle zie. Terza cosa, mai chiedere ai propri genitori perché siamo stati concepiti. Quarta, in fondo non esistono bambini nati per sbaglio. Quinto, ha ragione quel detto bergamasco che dice «Ogni bambin se porta al sofagutin». Persone che scrivono al 349-238-6666 e che sono rattristate dalla storia di Silvia, ma poi felici per come è andata a finire e per come si sta godendo inaspettatamente Milano, direi oggi. Sembrava essere alle Hawaii, mai sentito Milano descrivere così, soprattutto da una persona che arriva da un posto bello come la Sicilia e il Sud Italia. Dal 2004 giro per il mondo per lavoro e sono un po' la pecora nera della famiglia. In compenso però sono diventato il confidente di tutti i familiari separatamente. Ma vince tra tutti Andrea da Como, eccomi qua, pecora nera della famiglia, metallaro, ateo, gay, grillino e otaku. E otaku, mi spiegava Tiziano, che sono quelli appassionati di fumetti manga, fumetti giapponesi. Metallaro, ateo, gay, grillino e otaku. Ti lascio immaginare le riunioni di famiglia. Eppure a me va bene, Andrea. Andrea, se va bene a te, figurati a noi. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Silvia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Enrico, vivo a Verona. La storia di domani è la mia e parla della gara, della mia vita e della gara in cui ho scoperto mio padre. Questa è la mia storia e io sono qui.